dinge lume, pur cane mogliore, a quei dinge dinge di fume, chi si rurerò nella dura, ma le nostre quei dinge, un si lasciano di appà, ma tu sempre verso mare, sulla quei. Acque dinte, acque dinte, acque dinte, acque dinte.